È un weekend di galline vecchie. Valentino raggiunge il nono titolo mondiale. Nesta fa vincere il Milan col Chievo e Bersani la spunta su Franceschini e Marino. Sul fatto che poi Bersani faccia buon brodo, ci prendiamo una bella pausa di riflessione. Di sicuro il popolo del Partito Democratico ha una pazienza a prova di bomba, anzi di marrazzo. La gallina non è un animale intelligente, lo si capisce, lo si capisce.